Allora, questa sera incontriamo i compagni del collettivo Gina per parlare sì del passato, ma soprattutto ci interessa riuscire a capire tramite tutta una serie di domande che noi faremo loro lo stato dell'arte, che hanno qui della situazione precedente, di quanto oggi è in corso ancora nell'Iran e soprattutto il futuro. Perché è di questo che ci interessa, in quanto noi confidiamo che anche l'Iran precipiti, come tanti altri posti, quello che noi ormai abbiamo definito e fatto nostro, il nuovo disordine mondiale. Bene, io lascio adesso la parola a Sarabi e mando anche questo, accendo questo PowerPoint che tutti i collegati potranno vedere. Questo? Sì. Questa? Storia. Questo? Dovrebbe essere questo, sì. Non lo so. No. Non è questo. Questo era anche un PDF, aspetti un attimino. Quello non è un PDF. Questo è un PowerPoint, ma il problema è che non lo ha, non c'è il software, immagino. Ma non c'è problema, posso spiegare sulle foto che c'è. Ok, Bene, dai, vieni qua. grazie. Parla vicino a me. Sì, buonasera a tutte e tutti. Scusatemi che non siamo riusciti a portare un videoproiettore per far vedere queste foto. Comunque io spiego, noi abbiamo pensato che sia buono per poter capire meglio la situazione attuale di Iran, spiegare un po' la storia sia del regime islamico, cioè come è riuscito a venire al potere. È un regime che è così violento e tortura così i giovani, le donne specialmente. Come è riuscito a vivere? E spiego anche brevemente la resistenza adesso. Come sappiamo, nel 1979 il regime islamico è riuscito a vincere, è stata una rivoluzione, diciamo. Ma questa rivoluzione perché? Perché anche se il regime precedente, cioè il regime dello Shah, non era un regime teocratico, ma è stato un regime dittatore che reprimeva tutti gli intellettuali, aveva chiuso tutti i partiti politici, diciamo da molti anni, da 40 anni, aveva fatto un monopartito in tutto il paese, il partito dello Shah, e c'era l'unico partito che poteva fare attività politica. Dato tutti questi problemi, ovviamente della mancanza di libertà di parola, la corruzione che aumenta in tale situazione, ci sono state anche situazioni come economiche gravi, come inflazioni, specialmente negli ultimi anni prima della rivoluzione, che ha causato a moltissime persone da campagni, da paesini, anche dalle grandi città, anche studenti intellettuali, fare protestazioni, manifestazioni contro il regime dello Shah. Quindi un attimino che io condivido almeno lo schermo con... per online. Qua stiamo guardando la foto, ok. Quindi, come dicevo, sono stati enormi manifestazioni in Iran e alla fine è caduto il regime dello Shah. Ma come sono? Perché l'opposizione dello Shah non sono stati soltanto gli Ayatollahs, i Mullahs, sono stati anche quelli di sinistra, di destra, molti gruppi che erano secolari, c'erano altri gruppi anche islamisti come Mujahideen. Ma come sono riusciti loro a vincere questa rivoluzione? Questo è perché, più di tutto, perché lo Shah, anche se aveva represso tutti i gruppi di opposizione, aveva un buon rapporto con gli Ayatollah, e specialmente gli ultimi 20 anni di il suo essere in potere, ha aumentato moltissimo i numeri di moschee in tutto il paese. Anche in piccoli parti molto lontane dal centro di Iran, perché lui pensava che, essendo la maggioranza del popolo iraniano, essendo musulmana, pensava così può avere il popolo con sé. Quindi questo ha causato che quando è stata la rivoluzione, la caduta del regime dello Shah e la mancanza di potere, loro, essendo l'unico gruppo che hanno avuto, intendo gli islamisti, avendo già una rete in tutto il paese, anche nei paesini, sono riusciti molto velocemente a fare propaganda in tutto il paese e vincere, diciamo, la rivoluzione. Qua vediamo per esempio nelle foto che ci sono anche donne senza hijab dentro la manifestazione, ci sono molte altre foto che non ho portato qua, ma comunque sono riusciti a vincere loro. Dopo che loro sono venuti al potere, comunque c'è da dire che, dato che la partecipazione è stata da molti gruppi, sia sinistra, destra, eccetera, anche se loro facilmente sono riusciti a venire al potere, non potevano da solo governare, continuare il governo, quindi hanno avuto dei problemi, perché avevano promesso, specialmente Ayatollah Khomeini, quando era in esilio dentro il regime dello Shah, aveva promesso che nel prossimo regime sarà la libertà per moltissimi gruppi politici, per tutti, diceva anche apertamente, anche per i comunisti sarà la libertà. Quindi lui, quando è venuto al potere, per poter stabilizzare il suo governo, non ha subito messo al potere le leggi di Islam, o non ha subito represso tutta l'opposizione. La cosa che lui ha fatto, ha iniziato con le donne e anche i gruppi più emarginati, per esempio a Kurdistan. Le donne perché? Essendo islamista, lui pensava, aveva questa ideologia di indossare il velo islamico alla gente. Qua nella foto vediamo una delle manifestazioni delle donne nei primi anni della rivoluzione, quando lui, Khomeini, ha dichiarato obbligatorio il hijab. La cosa bella che vediamo in questa foto è che ci sono tantissime donne. La cosa che purtroppo non vediamo è sia la presenza degli uomini e anche la mancanza di presenza dei partiti politici. Non vediamo nessun banner dei partiti politici, che erano molti attivi nei primi anni della rivoluzione. Questo ha diversi motivi. Uno di quello è un motivo culturale, che purtroppo, essendo un paese islamico, la maggior parte degli uomini pensavano che questo non è importante, sostenere le donne, e lo stesso i partiti politici, perché anche molti di loro avevano il promesso da parte dell'Ayatollah Khomeini che loro avranno un peso nel prossimo governo. Quindi loro sono stati zitti, purtroppo, su questi obbligo di velo sulle donne, pensando che forse così possono avere un ruolo nel prossimo governo. Comunque ci sono stati anche altri motivi, che hanno causato questo. Per esempio, c'era anche repressione su alcuni dei gruppi. C'è da dire che anche la repressione sulle donne non è stato fatto da un tratto, perché il regime islamico, anche se la maggioranza del popolo sono stati musulmani, non poteva fare un cambio così grosso da un giorno all'altro, obbligare a tutti di indossare velo. Quindi ha iniziato, per esempio, alle scuole, per esempio, dicendo che gli insegnanti devono per forza, le donne, indossare il velo islamico. Dopo ha iniziato con TV nazionale, dicendo che tutte le donne che lavorano lì devono indossare il velo, e man mano sono riusciti a fare questo, e come vediamo c'è stata anche la resistenza da parte delle donne specialmente. Quindi lui, iniziando con la repressione con le donne, con i curdi, man mano ha iniziato anche con altri partiti politici, alcuni di loro prima, e poi man mano è andato avanti, per esempio ha fatto più repressione su gruppi di sinistra sin dall'inizio, ma ha coinvolto anche quelli di destra nazionalisti dentro il primo governo, ma man mano ha anche cancellato quelli che non erano islamisti dal governo. Quindi in questa situazione il regime islamico ha avuto un problema, perché tanti gruppi avevano fatto la rivoluzione e il governo, reprimendo tutti questi gruppi, aveva molti nemici. Ma la cosa che è successo dopo 3 anni della rivoluzione, Saddam Hussein ha dichiarato la guerra contro l'Iran. Questa guerra possiamo dire che è stato un regalo per il regime islamico, perché immaginando un regime con tutti i gruppi del popolo che c'erano dentro la rivoluzione, che ormai sono diventati opposizione, qual è la miglior giustificazione per reprimere la gente? Che c'è il nemico al vicino, chi è contro il governo è per il nemico. Quindi questo anno, questa guerra purtroppo è iniziato così, è continuato per 2 anni. Dopo 2 anni Saddam Hussein ha dichiarato la pace, perché ha visto che non può vincere facilmente l'Iran. Ma la cosa che è successo è che questa guerra così favoriva per il governo islamico che loro hanno continuato ancora per 6 anni la guerra, il regime islamico, e questo ha causato tantissimi danni al popolo, ha ammazzato tantissimi giovani, specialmente economicamente, è stato molto molto grave la sequenza sul popolo, e anche... dopo 6 anni, diciamo in totale dopo 8 anni di guerra, il regime islamico anche ha visto che non ha più il potere di continuare con la guerra. Quindi loro, appena hanno saputo che vogliono finire la guerra, la cosa che hanno fatto è che tutti i prigionieri politici che hanno avuto nel prigione durante questi 8 anni, hanno deciso in un periodo di 3 mesi di ammazzare attorno 8.000 di questi prigionieri, diciamo 8.000 persone che eravano, alcuni di loro avevano, quando sono stati messi in prigione avevano 13 anni, perché soltanto avevano un volantino di un partito di sinistra. O se c'erano persone che solo condividevano idee di sinistra. Quindi per essere tranquillo che dopo la guerra non ci sarà l'opposizione, hanno fatto in nascosto, in prigione, tutte queste esecuzioni. Qua vediamo alcune delle foto di questi che vediamo, molti sono giovani, sono donne, ragazze, ragazzini, anche molti intellettuali. Dopo questo periodo, che è stato un periodo di guerra, che diciamo è stato il periodo più oscuro dopo la rivoluzione, abbiamo avuto molti altri anche eventi. Io provo a spiegare un po' quelli che sono stati più importanti e più conosciuti. Per esempio, dopo la guerra, subito dopo la guerra, è stato diciamo per un periodo di 10 anni, è stato un periodo breve di apertura culturale, perché non avendo la guerra, non avendo la minaccia di repressione così enorme, il popolo, specialmente gli intellettuali, stavano un po' di nuovo facendo le attività che facevano prima, cioè scrivere libri, provare a aprire giornali, anche se erano subito dopo diventavano chiuso. Una delle cose che il governo ha fatto in questo periodo è una cosa che si chiama, è conosciuto come omicidi a catene. Loro, il regime islamico, in questo periodo di 10 anni ha ammazzato attorno 84 dei intellettuali, sempre in nascosto, in maniera molto molto volgare, come accoltellando uno o ammazzando uno a casa con i loro bambini. Ma chi erano questi intellettuali che hanno ammazzato? Alcuni di loro, diciamo 5% forse, erano attivisti politici. Ma 90%, 95% di questi intellettuali che sono stati ammazzati così violentemente sono state soltanto persone che scrivevano, per esempio, libri, c'erano poeti o traduttori che traducevano romanzi. Per esempio, uno di questi era famoso per aver tradotto romanzi di Borges, non so se conoscete il scrittore argentino, che non scrive neanche di politica, i suoi libri sono soltanto libri di letteratura. Ma perché ha fatto il regime islamico questa cosa? Perché sapeva giustamente che, essendo un regime teocratico, sapeva giustamente che gli intellettuali sono le persone che saranno riferimento per i giovani, per la nuova generazione, per apertura culturale, per vedere altri tipo di vita, tipo di pensiero. Quindi, avendo paura di queste, hanno ammazzato così per continuare con la repressione. Dopo questi abbiamo avuto altri movimenti, molti di quelli politici, per esempio abbiamo avuto il Movimento Verde attorno a 15 anni fa, adesso non ricordo gli anni, che in cui è stato una, come si dice, falsificazione dei risultati delle elezioni. Su questo mi sa che molti di voi già conoscete il Movimento Verde perché è stato molto famoso. Sapete che il governo ha scelto Ahmadinejad, ha falsificato a favore di Ahmadinejad, invece Serbia ha avuto la maggior parte dei voti. La cosa che io volevo soltanto dire su questa cosa è che molti qua pensano che, dato che in Iran ci sono elezioni, vuol dire che c'è anche la democrazia, ma questo non è giusto, perché in Iran il sistema di elezioni che esiste funziona così, che il governo sceglie 3-4 candidati e la gente possono soltanto scegliere tra queste 4 persone, non hanno altre scelte. Quindi anche qua si può dire, ma perché la gente ha sostenuto Mousavi, l'altro candidato, invece di Ahmadinejad, anche se sapendo che anche lui è del governo, fedele al governo. Questo è stato perché nei mesi prima di candidatura, ovviamente questi candidati, anche se sono del governo, fanno di solito delle competizioni per poter vincere l'elezione, perché sanno che alla fine ci sarà qualche gente che vota per loro. Uno dei candidati durante questo periodo, questa elezione di Movimento Verde, ha un po' esagerato nel criticare il governo, lo Stato islamico, e questo ha causato che subito Ayatollah Khamenei, ha detto il leader del paese, ha detto che ha detto che io sostengo quell'altro candidato, pensando che la gente sono con lui e voteranno per lui, e sapendo questo la gente hanno voluto anche più votare su quell'altro candidato. Quindi è stato questo la cosa, non è che in Iran ci sono democrazia o ci sono candidati che possono cambiare la situazione, purtroppo è così. E sappiamo che anche dopo questa falsificazione dei risultati, dopo che la gente sono scese in strada, hanno fatto repressioni molto brutali. Dopo questo abbiamo avuto altri movimenti, come il movimento Aban e il movimento Day, che sono stati molto importanti sia a livello diffusione, sia perché erano molto diversi di altre manifestazioni, diciamo nazionali, a livello nazionale, per la causa della manifestazione. Perché per esempio il Movimento Verde è stato causato nelle città più enormi a un motivo politico che ha causato anche lo stesso regime. Invece queste manifestazioni come Day e Aban hanno avuto più motivi economici, anche per la libertà ovviamente, ma sono iniziati con nelle parti più emarginate del paese, come parti molto distanti dal centro, dalle grandi città, e la situazione economica, anche la repressione politica era così grave nel momento, che l'hanno sostenuto anche altre città, e sono riusciti, questi movimenti sono riusciti a essere diffuso in tutto il resto del paese per, diciamo, per un periodo di 3 mesi, 2 mesi. Quindi sono stati anche molto importanti questi movimenti. E poi abbiamo avuto il movimento di Donna, Vita e Libertà, che è iniziato con, come tutti sappiamo, con l'uccisione di Mahsa Amini, perché aveva il velo islamico un po' indietro. Io ho spiegato tutto questo soltanto per dire come è stata la situazione prima, e specialmente per dire che, come abbiamo visto nella presentazione, la repressione non è soltanto politica, non è soltanto etnica, non è soltanto contro le donne, non è soltanto contro gli intellettuali, ma contro tutti gli attivisti, non solo attivisti, anche le donne che vogliono andare, anche i ragazzi che vogliono prendere la mano della ragazza e uscire sulla strada, quindi contro i sindacati. Quindi anche dentro questa manifestazione, dentro questo movimento che è iniziato con repressione delle donne, è iniziato con le donne in prima linea, giusto che è così, e siamo molto contenti per questa cosa, ma c'è da dire che ci sono tutti questi gruppi repressi dall'inizio del regime islamico dentro questa manifestazione, tutti questi gruppi. Grazie a tutti, è finita la presentazione, spero che non vi ho annoiato, e ascoltiamo le domande. Grazie, allora adesso noi ti facciamo qualche domanda, cercando di capire ancora meglio la situazione. Allora, la prima domanda è: ma il movimento che anche qui da noi l'abbiamo conosciuto, in tutto il mondo l'ha conosciuto, cioè Donna, Vita, Libertà, com'è la situazione al momento di questo movimento? Ok, mi sembra che c'è il compagno Siamà, che forse vuole anche prima presentarsi e poi forse lui risponde alla domanda. Ci senti, Siamà? Sì, va bene, buonasera a tutti e a tutti. Ascoltando Behrouz, spiegava, diciamo, parlava della rivoluzione del 79, e dopo mi veniva in mente di aggiungere una cosa, che praticamente viene in Occidente nominato sempre il regime di Ayatollah, perché sono famosi Ayatollah, però l'Ayatollah praticamente una copertura sui nuovi capitalisti che hanno preso potere. Praticamente è stato cambiato il potere politico dal tempo dello Shah alla Repubblica Islamica, e come che era famoso in Iran, attivisti iraniani di sinistra erano per questo opinione che la rivoluzione è stato fatto cesario, non hanno permesso di arrivare e di maturare, come che oggi sta succedendo questo in Iran, e succede di solito quando ci sono movimenti di massa, movimenti dei lavoratori, del popolo, e sempre intervengono di accorgere praticamente la strada e di non permettere di andare in profondo e toccare le basi praticamente di quello che muove la gente di scendere in piazza, di protestare, di alla fine di fare una rivoluzione. Lo Shah era un regime, diciamo, dittatoriale, capitalistico, che era sotto comando, praticamente aveva un buon rapporto con l'America, Stati Uniti d'America, e ascoltava tanto loro e faceva programmi politici e economici, praticamente ascoltando e consigli dell'America. E il paese è un paese molto molto disuguale, e c'erano, posso dire, discriminazioni, e quelli che erano queste cose erano diciamo tra elementi che gente che aveva una briciola di la libertà civile, come vestirsi, come potere, come tutto quelli che vediamo qua, però sono scesi in piazza in milioni contro il regime dello Shah. sono arrivati islamisti praticamente, così famosi, però hanno preso tutte le risorse economiche in mano e per continuare di fare praticamente accumulo di questo capitale avevano bisogno di riprendere movimenti operai, sindacati, partiti, scuola, università e anche intellettuali, tutto ciò che poteva ostacolare praticamente il processo. È cominciato subito dopo la rivoluzione e poi è cominciato subito con i curdi in Kurdistan. Di seguito la ideologia che è stato praticamente un strumento molto efficace per il regime islamico ha dato una mano al regime di chiudere e di fare portare praticamente la lotta abbastanza avanzata degli iraniani portare anni e anni indietro e che ora oggi cercano iraniani di ottenere praticamente quelli che avevano 50 anni fa, le donne vestire come che vestivano le nostre madri 50 anni fa. E Movimento Donna Vita e Libertà è stato praticamente, forse sappiamo tutti la storia, viene uno slogan che veniva citato praticamente nella città, nella Kurdistan siriana di più, Jinjian Azadi, e dopo morte di Mahsa Amini, che era una ragazza curda, nel cimitero è stato citato questo slogan e da quelli lì volato, aveva una base, aveva un motivo, perché la prima repressione del regime era anche contro le donne. Loro hanno cominciato dai primi mesi hanno cominciato a chiudere posso dire dopo poco tempo loro hanno attaccato, hanno chiuso tutti i sindacati. C'era un'organizzazione organizzata di operai, si chiamava la Casa dell'Operaio. C'erano movimenti operai molto vivaci, molto vivo. Hanno attaccato, hanno arrestato membri, hanno creato un'altra casa falsa dell'operaio islamico. Hanno fatto con le università, hanno fatto nelle scuole, hanno mandato a casa tantissimi insegnanti che non pensavano come il regime. E tra loro molti, molti, molti di sinistra, così tanti di sinistra, che sembra che la società iraniana e in maggioranza sono di sinistra, che non è vero, però la maggioranza di dissidenti, la maggioranza che hanno alzato la voce erano di sinistra e hanno riempivano carceri iraniane nel tempo dello Shah e suo padre e anche nel tempo di regime islamico, regime Repubblica Islamica praticamente. Allora, queste rivolte dopo la rivoluzione via via si sono avvicinati, prima erano ogni 3, 4 anni, 5 anni, piano piano con la situazione economica e sociale e politica che aggravava e questi movimenti, queste rivolte del popolo che maggior parte erano delle classi operaie, i loro figli si sono avvicinati. Ogni due anni, un anno, una settimana, 10 giorni succedeva con la scusa di un problema, per esempio rincari della benzina, queste cose qui uscivano in piazza e contro il regime. E si sono accumulati praticamente questa rabbia, questo dissenso. Sei sette mesi fa, settembre 2022, dopo quello che è successo, abbiamo sentito tutti quello che è successo con la morte di Mahsa Amini, Gina, questa volta questa esplosione della rabbia e delle richieste represse si sono dimostrati con uscita giorno e notte dei più giovani, quelli che sono nati e cresciuti nella Repubblica Islamica sotto bombardamenti delle loro ideologie, delle loro egemonie, sono usciti, praticamente usciti in piazza, hanno manifestato e come che sappiamo ci sono stati quasi 600 morti, tra loro 500 uomini. E questo movimento, Donna, Vita, Libertà, tra dentro di sé c'ha il primo elemento, la donna, e repressione contro la donna, che le leggi che sono leggi di Sharia che sono contro la donna, perché sappiamo tutte le religioni, e la donna è Eva, è metà di Adamo, e non è un primo grado. E nella Sharia è così, era anche il tempo dello Shah come legge. E questo non sopportava più, non sopportavano più le ragazze. Le ragazze sono diventate il leader della protesta. E nelle proteste, nelle manifestazioni si sentivano per prima le voci e il grido delle donne, delle ragazze, giovanissime ragazze, che poi tanti hanno perso la vita o gli occhi o altri organi e tantissimi problemi. Però la repressione è stata fortissima. Raccontavano per un manifestante, c'erano due poliziotti armati fino ai denti e senza pietà. Repressione, manganellette e spari. Pari con fucili di guerra e anche quelli di gomma prodotti, come sappiamo, a Livorno, che è stato venduto al regime iraniano, che loro sparavano ai parti genitali, sparavano agli occhi dei manifestanti apposta, perché non vedete e non esistete. Dopo tutta questa repressione, ora siamo, posso dire, definire in stand-by. La rivolta, la rivoluzione sta pensando e come deve fare. Si sta organizzando per noi. Noi sentiamo questo, che si sta organizzando e trovare il modo che si può definitivamente e mandare questo regime all'inferno. Per questo, ora, dopo tutte queste repressioni, ora non abbiamo città grande, città piccola, che c'è stato tutto, città iraniane, non abbiamo manifestanti e manifestazioni, diciamo, grandi o diffusi. Invece in Baluchistan iraniano, che è una regione poverissima, che maggior parte vivono, posso dire, con 3 litri di acqua al giorno, 3 litri di acqua, e vivono trasportando benzina contrabbanda, gasolio, in Pakistan, e facendo questo lavoro, tanti vengono colpiti con la loro macchina, con le taniche di benzina al confine dai guardiani della Repubblica Islamica, e queste macchine vengono esplode, esplodono e morirono tantissimi. Allora, in Baluchistan iraniana, represso anche dal nazionalismo islamico del governo centrale, sono ancora in piazza. E nel regime islamico ha impiccato tantissimi baluci e anche curdi che hanno una parte storia di lotta contro i regimi dello Shah e anche del regime iraniano. Praticamente posso finire e ripetere che ora è movimento Donna Vita Libertà e corre sotto nel profondo della società in standby. Si sta pensando di come portare avanti la lotta contro il regime. Grazie, scusate. Niente, grazie a te. Allora, credo che siccome in parte abbia già risposto ad alcune domande, salvo volevamo capire perché qui da noi è risultata, come si dice al giorno d'oggi, una narrazione tra quelle più importanti, almeno quelle più significative, tutte quelle lotte sindacali del settore petrolifero. Quindi se hai qualche notizia ce la puoi dare. E il rapporto anche poi a quello che potrebbe interessarci, che è la mobilitazione dei giovani contro il regime. Cioè io recentemente, anche 3-4 sere fa, il TG1, il TG2 adesso non mi ricordo, vedo che comunque in tanti posti, definiamoli centri commerciali, le piazze, ancora ragazze comunque vanno in questi posti senza il velo. Se posso rispondere all'ultima domanda, forse sia Marco, può rispondere quello riguardo ai sindacati. Possiamo dire che la presenza dei giovani, anche minorenni, diciamo, in queste manifestazioni è uno dei punti che è molto diverso da altre manifestazioni che abbiamo mai avuto. Questo perché? Perché prima di tutto che il discorso è un discorso che la causa di queste manifestazioni è la repressione delle donne e la hijab, quello è il motivo principale. Anche ecco perché ha preso anche questa slogan Donna, Vita, Libertà, perché la donna e la libertà di donna è stato messo come principio. E questa generazione è una generazione che è stata cresciuta con i film di Disney, con internet, la nuova generazione, stiamo parlando di 18 anni, di 14 anni, 16 anni, che sono stati ammazzati durante queste manifestazioni. Per quelli il discorso è molto diverso, perché loro finché sono a casa o a scuola con gli amici vedono un altro mondo, ma quando diventano adulti e devono indossare velo ci sarà un altro mondo. Da noi, quando per esempio io che ne ho 40, quando c'ero bambino c'era soltanto una canale TV gestita dal governo, non c'erano satelliti, non c'era internet, quindi non vedevamo un altro mondo, un altro stile di vita. Loro invece non vedono un altro stile di vita e da istinto non possono accettare. Sappiamo tutti che istinto è una delle forze più forti dentro ciascuno di noi, quindi per quello la presenza dei giovani è molto alto, e come loro si mobilitano con metodologie molto molto moderne, utilizzano molto i social, pensano ogni giorno di fare diciamo rompere i governatori, fare qualcosa per farli arrabbiare. A volte vanno hanno fatto queste sin dall'inizio, hanno le cose che mettono gli ayatollah sopra la loro testa, i mullahs, vanno a buttare via quello, per esempio. Sono tutti questi, sono strategie che pensano loro, vanno con le slogan, scrivono su tutti i muri. Come abbiamo visto, una cosa che mai è diventato un movimento, vanno a ballare sulle piazze, i gruppi. E poi c'è tutte queste cose. E poi nell'altra parte hanno metodologie molto diverse per trovarsi sui social. C'è anche da dire che non hanno un leader, non esiste in Iran per questa manifestazione, non esiste un leader. E dal Movimento Verde possiamo dire che non è stato mai esistito un leader per manifestazioni, soltanto delle manifestazioni dei sindacati, da parte dei sindacati, che fortunatamente sono stati molto molto anche, hanno avuto molto, hanno fatto manifestazioni molto grandi recentemente, sindacati delle insegnanti, che spiega adesso, o Haftape, quelli di Haftape. Quindi tranne questi, quelli dei sindacati, diciamo fortunatamente non è stato mai, per me fortunatamente non è stato mai ancora un leader in Iran, quindi tutte le manifestazioni sì, i giovani, gli intellettuali eccetera, si manifestano in maniera senza un leader. Ecco, adesso però passiamo a un'altra faccenda, perché non ci sono regimi che stanno in piedi da soli contro tutti, no? Quindi anche il regime iraniano deve avere un consenso ampio e prima di tutto una rete di interessi che consente anche di permanere, oltre alla repressione, chiaramente al potere. Ecco, quali sono questi ceti che particolarmente detengono il potere, oltre ai preti chiaramente, in Iran? So, inizio io e poi dopo siamo, forse spiego un po' meglio sia questo e anche sul discorso dei sindacati, perché loro hanno fatto delle manifestazioni molto forti. Chi è col governo? C'è da dire questo, che questo regime con la sua ideologia ha già perso. Non è funzionante più solo l'ideologia, anche i figli del governatore non credono più a quelli che dicevano i loro genitori, anche i genitori non credono più, perché loro sono venuti con delle slogan che questo regime islamico farà migliore non soltanto il paese, ma tutta la zona vicino, anche il mondo, sarà un'alternativa per il mondo, alternativa migliore, eccetera, eccetera. Ma dopo tutti questi anni la gente hanno detto che per quanto riguarda libertà siamo peggiorati, specialmente per le donne, eccetera. Per quanto riguarda l'economia è tutto perso. Siamo in peggior situazione forse in centinaia di anni, quindi sua ideologia non ha più persone che possiamo dire sono fedeli al governo. Invece sono ancora sicuramente dei gruppi che sostengono il governo. Chi sono questi? Secondo me sono questi, prima la parte del popolo che sono corrotto o coinvolto con la corruzione o del regime, nel rubare del petrolio e tutte queste cose. E poi ci sono anche delle forze armate, per esempio, o persone che sono state coinvolti durante tutti questi 40 anni nelle repressioni. Hanno ammazzato la gente, erano per esempio giudici che hanno processato la gente, hanno dato condanne. Tutte queste persone, ci sono moltissime di queste persone, sia corrotte sia coinvolte nei crimini del regime, che sanno che quando questo regime cade saranno perseguiti. Quindi loro e i loro figli o forse i loro parenti che sono coinvolti con loro, hanno condiviso loro un po' di capitale con loro, tutti loro seguono questo governo, questo è quello che penso. Poi sia Max, se tu vuoi aggiungere qualcosa o... devo dire, poi ci sono quelli che hanno parlato, Behruz, si può anche... praticamente dire che il regime iraniano, non so che sapete, il PIL iraniano è diciottesimo nel paese del mondo, un PIL abbastanza, una produzione interna lordo abbastanza notevole, e allora viene prodotto in Iran. E ci sono mezzi, un paese posso dire sviluppato in tutti i sensi, economicamente, anche nella società. Ora si può sentire, vedere l'effetto di questo, e ha creato anche praticamente una margine da bricioli, e parliamo di miliardi di dollari che praticamente il regime iraniano, come il grande padrone che ha in mano i basi dell'economia, industria, agricoltura e tanto resto, la finanza, però ci sono i nuovi ceti, nuovi capitalisti che con le briciole che è arrivato a loro si sono arricchiti e non piace tanto a loro l'ideologia del regime, però il rapporto economico sì, sono arricchiti e stanno molto bene e stanno guadagnando e non è che fa, non vogliono l'ideologia del regime, vogliono avere un po' di libertà, diciamo quelli di normali, però quelli il rapporto economico e quelli praticamente la struttura economica e politica del regime si sono arricchiti e quelli sono una parte che non vengono praticamente radicalmente coinvolti nella protesta contro il regime. Poi ci sono, come che ha detto Berus, il regime iraniano basato e seduto praticamente sulla forza di repressione, diversi polizia, cioè quelli anche borghesi che sono barbari, molto pericolosi e senza pietà, e queste persone qua e loro famiglia, maggior parte posso dire, poi ci sono quelli che è al contrario, però loro famiglia praticamente possono essere una base, non sono pochi. Forse in Iran noi abbiamo più di 3 milioni, anche io forse di più, di diversi polizie, diciamo, polizia morale che avete sentito, Pastaran, Basij, poi ci sono forze speciali e cose lì che vengono nutriti benissimo dal regime, hanno tante possibilità, possibilità finanziaria e economica, e loro sono legati praticamente anche economicamente con il regime e difendendo il regime iraniano difendono loro profitti, loro mezzo di loro economia praticamente, loro vita. E c'è anche questo. Se vado di parlare, parlando dell'economia, parlando della società iraniana, noi negli anni precedenti, prima della recente rivolta in Iran, noi avevamo intorno ai 2.500-2.800 scioperi nei diversi settori. Al contrario, nel settore petrolifero, non è quello ufficiale, non abbiamo un sciopero diciamo attendibile. Invece questi scioperi che abbiamo sentito sono una parte degli operai che praticamente si può definire alla italiana con tempo determinato. C'era un contratto e di solito poi ci sono grandi appaltatori, appaltatrici che prendono pezzi del lavoro del progetto nel settore petrolifero e portano avanti non la produzione direttamente del petrolio e gas, quelli di dintorni, della logistica, dei servizi, e questi sono formati che queste forme noi vediamo anche in Italia, anche in Germania, io conosco, sono operai prestati, operai che non hanno quasi niente diritti e stipendi bassi rispetto a quelli ufficiali del settore settore petrolifero, e poi anche quelli spesso prendevano stipendi dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi di ritardo, una parte di questo qui. E questi erano costretti a dire, quando andavano in ferie, perché vivono in altre città e vanno a vivere nell'inferno di zone petrolifere, zone che non si può respirare, e temperatura in estate va supera 50 gradi, è insopportabile, muoiono tantissimi e poi non hanno minime cose, servizi, la mensa, è orribile. E allora loro dovevano lasciare, diciamo, 25 giorni, 24 giorni a lavorare, 5-6 giorni di festa, andavano e facevano altri lavori. Uno faceva meccanica, andava a saldare, perché erano tutti anche qualificati questi operai. E poi allora hanno fatto questi scioperi per i stipendi, prima per stipendi che erano arretrati e poi dopo anche per avere 20 giorni di lavoro e 10 giorni di riposo. E poi dicevano, perché questo è di riposo, perché non riposiamo questi 10 giorni, noi andiamo dalla nostra famiglia e cominciamo a fare qualcosa per avere per guadagnare un po', per andare avanti. Col PIL grande iraniano, e questa è la situazione degli operai che vivono in un settore che 80% del PIL iraniano basato sulla produzione del petrolio e gas. Questa lotta ancora continua con diverse forme. In questi tempi non sappiamo il motivo preciso del tempo della rivolta. I scioperi sono calati, quasi azzerati, e dopo subito sono cominciati. Ora ci sono scioperi non come prima, però ci sono scioperi perché non si può andare avanti così. È molto difficile la situazione economica. Grazie. Allora, volevo anche chiederti un'altra cosa che è relativa alla questione dei soggiorni in Italia e in Europa per chi è iraniano e sceglie di stare qui, però non può rientrare nel paese per questioni della repressione. Io posso parlare più su studenti, perché anche io sono venuto qua come molti altri iraniani che vengono qua per studiare, e io conosco più questa comunità. Su quelli direi che sì, molti di loro vengono qua, diciamo non vengono soltanto per studiare. La parola giusta è che scappano dal paese perché non c'è un modo più da vivere lì, non possono più sopportare, non solo loro, anche i loro genitori dicono che vai via, esci, per poterti accettare, sai, perché sanno che è diventata una situazione che non è più sopportabile, la situazione allora arriva la richiesta, la situazione economica specialmente per LGBTQ, se sei tra queste minoranze, se sei curda per esempio, hai tante difficoltà, quindi loro scappano con pochi soldi e vengono qua a studiare. Purtroppo la cosa che vedono qua è che ogni giorno devono rinnovare il permesso di soggiorno portando tantissimi documenti, per esempio devono avere la residenza, ma come puoi ottenere una residenza se non ci sono casa a Milano e sei studente al Politecnico per esempio, come fai? Che fai? Vai al dormitorio, ma la cosa strana è che questo, che prima il costo del dormitorio è molto più rispetto ad altri paesi europei, diciamo, anche se sono statali, e poi non ti danno la residenza. E perciò non puoi avere, per esempio, il permesso di soggiorno. Quindi ci sono tantissime difficoltà per il permesso di soggiorno, lo danno con molto ritardo. Stavamo ieri parlando con Siamax su questa cosa, che lui giustamente diceva che il popolo studenti che vengono qua vanno puniti sia da parte del governo iraniano sia da parte del governo italiano, senza nessun motivo. devono, altri paesi, per esempio, danno, se tu sei studente per tre anni, quattro anni, ovviamente ti daranno un permesso qua, per quattro anni, per tre anni, non che ti chiedono ogni giorno di pagare una cifra, venire in linee lunghissime, aspettare per tre, quattro giorni e poi essere trattati malissimo. Quindi c'è questo da dire da parte dei studenti, e se uno conosce meglio altre comunità. Se vuoi spiegare. Allora io faccio, Ah no, c'è ancora lui. Vuole spiegare un po'. Allora, ascolta un attimo. Sì. Vai? Sì. Siamo, puoi parlare? Sì, va bene, ok. Allora, dicevo, io sono il fratello di quelli che 23 anni che non vado in Iran, non posso andare. Il motivo di uscire dall'Iran praticamente era quegli anni sono stato in carcere del regime per 4 anni, quando avevo 21 anni, e poi dopo anche, dopo che è uscito da carcere, un po' di tempo passato, ho cominciato poi a fare, trovare i compagni che eravamo in carcere insieme o quelli che erano fuori e riprendere quelle che potevamo fare contro il regime. Allora poi alla fine poi è successo luogo di lavoro che abbiamo capito da uno che era informato, era il nostro compagno, che ci vogliono arrestare. Allora hanno arrestato uno dei nostri compagni e poi siamo dovuti di lasciare il paese e uscire fuori. Poi alla fine mi sono trovato in Italia con tantissime difficoltà a livello burocratico e anche la vita, senza un mezzo, senza aiuto, senza tanti problemi che all'epoca c'erano. L'unica forza era la gente, un'accoglienza molto tenero, molto carino da parte. E quelli che incontravo, e praticamente questa era stata un'esperienza bella, e di gente comune, vicini, chi poteva, con la parola, chi poteva fare qualcosa, e ci dava la forza di andare. Invece l'apparato burocratico ci ammazzava. Oggi parlavo con Berus ieri, c'è anche un problema che non si capisce, perché per esempio io ora sono da 12-13 anni cittadino italiano, anche c'è un problema ancora con le banche, perché le banche sanzioni volevano mettere in disagio il regime iraniano, infatti invece hanno messo in disagio gli iraniani. Abbiamo problema con le banche, con i conti correnti, con tantissime cose che devi fare a questo, diciamo, con le banche. Io dopo 23 anni, per esempio, sono andato, dovevo cambiare il bancomat, sono andati sul computer, hanno detto è un bollino rosso, che cos'è? Sei iraniano e doppia cittadinanza? Io sì, madonna, non si fa. E non hanno cambiato, non poteva cambiare, chiudevano conti, perché c'è una legge che sanziona il regime, però non il regime, Iran, gli iraniani sono sotto, il regime sta facendo tutto quello che deve fare. E c'è questo suo rapporto, avete sentito, hanno fatto un scambio, ha preso in ostaggio turisti europei che andavano in Iran per scambiare con i suoi terroristi. Assadi hanno liberato Una settimana fa Belgio ha liberato, ha preso 4-5 ostaggi dal regime iraniano. Ora c'è uno assassino che è stato in carcere in Iran, lavorava lì, faceva tantissimo, si è stato conosciuto colpevole in Svezia. C'è questo, stanno parlando di scambiare anche questo. Questi sono problemi che ci danno come iraniani fastidio, iraniani che viviamo fuori dall'Iran in Europa, che ci danno tanto fastidio praticamente. Marco, scusami. Senti, sì. Ci sono delle domande qua, quando si può iniziare. Vuole fare un'ultima domanda, poi dopo quest'ultima domanda chi in collegamento vuole fare domanda si può iscrivere, poi anche quelli in sala. Allora, l'ultima domanda è relativa alla posizione che ha l'Iran rispetto al conflitto Russia-Ucraina. Grazie. Mi permetto di leggere perché senza leggere rischierei di perdere il filologico, perché c'è veramente tanta carne al cuocere. Quindi, il conflitto russo-ucraino, in corso da più di un anno, come per tutte le guerre, vede coinvolte diverse realtà internazionali, che non si limitano alle sole protagoniste come NATO, Stati Uniti e Russia, ma che chiama in causa l'intero sistema politico mondiale, mosso dagli interessi economici che ne generano alleanze e dispute. Della fattispecie iraniana, su cui qui è centrato il focus, è nota la posizione ambigua mantenuta fin dallo scoppio del conflitto. Come si evince dalla dichiarazione del portavoce del ministro degli esteri iraniano, Nasser Kanani, lo scorso ottobre, che ha espresso un'apertura del paese al dialogo e alla possibilità di negoziazione con l'Ucraina, negando il coinvolgimento a sostegno della Russia. Si contraddice però attraverso l'estensione e l'astensione in sede di votazione ONU alla condanna della guerra e alla richiesta del ritiro delle truppe sul territorio ucraino. Come ogni regime di stampo autoritario, il regime islamico rimane concentrato sul fine ultimo di garantire la propria sopravvivenza. Sfiancato dalla crisi economica e dalle ondate di protesta del movimento Donna Vita Libertà che proseguono da mesi. L'unica speranza di sopravvivenza è dunque un'alleanza con la Russia, legata alla possibilità di costruire un fronte comune tra paesi sanzionati. Per consolidare questa componente economico-finanziaria, l'Iran ha fornito e tuttora fornisce droni da utilizzare contro obiettivi civili. Un'altra componente rende però necessaria all'Iran l'alleanza con la Russia, cioè l'avanzamento del suo programma nucleare, bloccato dall'accordo JCPOA del 2015, e che in questo contesto avrebbe la possibilità di progredire grazie all'apparente disinteresse degli Stati Uniti impegnati su altri fronti. Un ulteriore accordo si dirama sul filo rosso dell'alleanza con la Russia, ed è quello stipulato dall'Iran con la Cina, indicativo dell'interesse commerciale tra le due nazioni e l'inaugurazione lo scorso dicembre di un consolato generale cinese nella città portuale di Bandar Abbas e il contestuale annuncio dell'apertura della prima rotta commerciale diretta tra la Repubblica Popolare e il porto oceanico di Khabar. A oggi però una reale espansione delle relazioni economiche sino-iraniane rimane fortemente limitata dall'isolamento internazionale dell'Iran, ma col tempo questa si è rivelata indispensabile nell'accordo raggiunto tra l'Iran e l'Arabia Saudita, primo fornitore di idrocarburi alla Cina. L'accordo saudita-iraniano del 10 marzo, concluso grazie alla mediazione decisiva della Cina, non prende le mosse a sostegno di un tentativo di riappacificamento all'interno del territorio medio orientale, né indica la fine delle tensioni tra la Repubblica Islamica e il Regno Arabo del Golfo. Rappresenta piuttosto una vittoria diplomatica per la Cina, che eleva il proprio rango internazionale e contribuisce alla stabilità della regione fornitrice di materie prime, contrastando contemporaneamente la narrazione degli Stati Uniti secondo cui la Repubblica Popolare Cinese è una minaccia dell'ordine mondiale basato sulle regole, probabilmente le loro. L'accordo comporta una maggiore attenzione da parte degli Stati Uniti nei confronti della crescente influenza cinese, e a questo si aggiunge il peso della Russia, che mantiene ottimi rapporti con i sauditi, nell'ottica dei quali la riapertura dei rapporti con la Repubblica Islamica comporta la riduzione delle minacce mediate non solo nel Golfo e nel teatro yemenita, ma anche nei negoziati locali in Siria e nel braccio di ferro istituzionale in Libano. Nella gestione dei confini di questi territori entra in campo la posizione della Turchia nel conflitto, che porta avanti una politica di bilanciamento tra le parti. Il rapporto con il partner occidentale è sostenuto grazie alla riduzione del supporto ai curdi da parte della Svezia e della Finlandia, intente ad accedere nell'Alleanza Atlantica, mentre il rapporto con Mosca resta ben saldo grazie ai rapporti commerciali ed economici supportati anche dalla popolazione turca, che ritiene Stati Uniti e NATO principali responsabili della guerra. Pertanto, ad oggi, la Turchia si pone come possibile mediatrice tra i due blocchi di alleanze. Da questo breve excursus della situazione geopolitica internazionale attuale, che non vuole essere per nulla esaustivo, ma semplicemente porsi come punto di partenza per riflessioni che comprendono diverse e diversificate questioni politiche in merito agli aspetti e componenti in gioco nella guerra russo-ucraina, si può dedurre che il forte avvicinamento dei due colossi asiatici, Russia e Cina, non garantisce a Teheran una via d'uscita stabile e risolutiva dall'isolamento internazionale politico ed economico. Inoltre, come si evince, attraverso accordi e mediazioni di altri paesi medio orientali, la spaccatura tra i due blocchi è innegabile, motivo per il quale si necessita della realizzazione di una terza via, quella tracciata dal popolo. Oppressioni, violazioni e manipolazioni sono in atto in ogni angolo del mondo, e per chi non fa parte di quella cerchia che detiene il potere, può sembrare impossibile sopravvivere senza schierarsi tra quanto proposto. Ma in realtà l'associazione volontaria di comuni cittadini di tutto il mondo che disponga come resistenza alla guerra che ci obbligano a combattere potrebbe essere una soluzione, se non l'unica. Grazie. Allora, se qualcuno collegato vuole fare la domanda, può cominciare. Chi c'è? C'era Alessandro che voleva fare una domanda, se vuole farla direttamente, se no leggo la chat. Ma tu avevi già qualcuno? Sì, sì. C'era Alessandro che voleva sapere dai compagni iraniani qual è, secondo loro, il rapporto tra il movimento sindacale e l'ultima ondata di movimento in Iran. È una domanda precedente che diceva, in parte è stato risposto, se il movimento Donna Vita e Libertà era un movimento spontaneo o c'erano organizzazioni o organizzazioni che si muovevano. Ho capito soltanto l'ultima parte, Francesco, purtroppo non ho capito tutto, ma riguardo se è stato spontaneo o è stato organizzato, no, da tutti quello che vediamo è tutto spontaneo, diciamo, non è stato mai organizzato. E non c'è dentro l'Iran, non può essere una forza politica che può organizzare, perché subito dopo che viene un gruppo va represso da parte del governo o un leader. Proviamo a vedere se funziona anche lì, perché sì, sì. Va, se allora mi... così sì, facciamo, certo. L'altra domanda era quella: qual era, secondo il collettivo Gina, il rapporto fra il movimento sindacale e l'ultima ondata di movimento in Iran? Di movimento, scusa? Di movimento in Iran. Sì, ma puoi rispondere. Sono abituato. Sì, puoi parlare. Ci provo. Mi sentite? No. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok. No, dicevo, è un po' difficile perché non si può praticamente indicare ufficialmente, perché non siamo in Iran. In Iran sindacati regolari non esistono. Quelli che ci sono forti come sindacati di Haftappe o quelli di diciamo Attaf di Teheran, di autisti della linea autobus di Teheran, urbana di Teheran, che sono sindacati che esistono da anche prima della rivoluzione, però non sono mai sono legali. E il regime è dovuto chiudere un occhio e non vedere, e però non sono legali. Se vogliono un secondo posto, infatti hanno attaccato diverse volte a loro sedi, hanno arrestato, hanno portato in carcere, hanno torturato anche. Ora anche ci sono diversi in carcere. Allora, non abbiamo un sindacato, un CGL, un CISL, UIL, su COBAS, cose lì, con una sede, con delle leggi e cose lì. Non esiste una cosa del genere. È tutto il sacrificio dei operai, quelli attivisti, quello più attivi nelle industrie, nel luogo di lavoro, praticamente, che con la fatica provano di organizzare la lotta. Il rapporto, perciò, non ha un rapporto organico a questo senso che si può dimostrare, però quelli che erano in piazza, maggior parte quelli che erano in piazza e maggior parte di quelli che sono stati, tra virgolette, giustiziati, impiccati, ammazzati, torturati in carcere, maggior parte erano figli di operai, erano operai e figli di operai, giovani operai, lavoratori che lavoravano nei diversi settori. E si può dire praticamente quelli che hanno spinto avanti questi giovani, giovanissimi ragazzi, di andare in piazza di fronte, davanti a una forza feroce e armata fino ai denti, poteva essere anche la realtà, la loro esistenza sociale, il loro posto nella società, come lavoratori che, come che abbiamo parlato, non hanno nemmeno, non possono arrivare nemmeno a metà del mese, con inflazione a, non so, vero 50%, 60% ufficiale. Allora non c'è un filo evidente che tu si può legare queste due cose insieme, però è vero, c'è, non è un filo, c'è una corda molto forte che lega questo movimento praticamente con la lotta operaia si può anche dire, tra virgolette, sindacati. Poi i sindacati hanno una storia. Primo sindacato praticamente è stato costruito nel 1905 a Teheran. Erano operai che andavano a Baku in Azerbaigian, emigravano lì per lavorare nel settore petrolifero a Baku in Azerbaigian della Russia, o a in Ashgabat, la capitale di Turkmenistan oggi, di ex Unione Sovietica, del tempo dello Zar, no? E loro andavano lì, poi conoscevano rivoluzionari russi, azerbaigiani, turcomani, e lì conoscevano praticamente la lotta di classe operaia, e tornavano in Iran. E loro sono state base di tutte queste organizzazioni, sindacati e le lotte dall'epoca, da allora. E hanno allora una storia praticamente loro, nel 1905, prima sindacato che è stato costruito a Teheran, di una stamperia, piccola stamperia a Teheran, e poi dopo subito altri 15 sindacati di settori, e poi negli anni dopo, in 10 anni di un voto che è tra esilio del padre dello Shah e lo Shah che non era ancora forte, è stato un periodo di 10 anni di una democrazia diciamo non così tanto forte, però è stata possibile di organizzare. Operai sono riusciti a organizzarsi, sindacati sono formati, sono usciti fuori partiti, organizzati, eccetera. 10 anni di crescita, di lotta, però poi dopo, subito dopo il golpe dello Shah, con l'aiuto di CIA, nel 1950-51, sono andati tutti. Sono chiusi, sono arrestati, e da allora non c'è stato un sindacato legale, un partito legale in Iran, no, né nel tempo dello Shah né nemmeno la Repubblica Islamica. Hanno lottato a quegli anni, hanno obbligato il governo di allora di dichiarare il 1° maggio una giornata festiva per operai. Oggi non abbiamo, non è festiva in Iran, perché Khomeini ha detto tutti i giorni sono giorni dell'operai, non è il 1° maggio, è tutti i giorni, allora non abbiamo un giorno per classe operaia. Ma grazie Siamax, posso aggiungere una cosa? Come diceva giustamente Siamax, fare sciopero in Iran è un reato contro la sicurezza nazionale, è considerato così. E vanno eseguiti a volte anche, vanno ammazzati violentemente, vanno torturati per fare un sciopero. Quindi non è una cosa semplice come qua che si può dire che perché non sono usciti gli operai il giorno dopo di questo movimento, perché è difficilissimo organizzare, specialmente durante un movimento, perché quando c'è un movimento la repressione aumenta tantissimo e la situazione economica anche si peggiora, perché tutto il paese non funziona come funzionava, anche gli operai a livello economico avranno più difficoltà. C'è altro questo, volevo anche aggiungere che i leader comunque, perché noi abbiamo i leader dei sindacati, anche sono tutti nascosti queste organizzazioni, ma sono persone che sono stati famosi per esempio Esmail Bakshi, per Haftape o altri leader dei insegnanti, dei guide, autisti, di autobus. Tutti questi, sin dall'inizio di questo movimento, personalmente hanno dato il loro sostegno e solidarietà con questo movimento. Hanno detto che noi siamo con questo movimento. Ma purtroppo, come dicevo, non c'è un rapporto lineare. Non si può dire che questi scioperi hanno creato questo movimento, o sono a fianco, allo stesso livello stanno portando avanti. Si può dire che... come dicevo prima, ci sono dentro questo movimento sono tantissime gruppi, da sinistra a destra, da secolari, da anche gruppi forse islamisti come Mujahideen, anche loro sono, non si può dire che non sono, anche monarchici purtroppo, anche sindacati, quindi tutte queste forze ci sono, ma non si può dire che c'è il sindacato che sta portando avanti per esempio questo movimento. Grazie. Collegati, c'è ancora qualcuno che vuol fare domande, chiaramente? Mi sente? Alessandro vuole intervenire, che intervenga. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora... Chiedevo ancora che rapporto c'è tra, diciamo, il movimento allora dei lavoratori, visto che è improprio parlare di movimento sindacale, il movimento Donna, Vita, Libertà e le minoranze nazionali. Poi approfitto nel caso, siccome ho avuto modo di conoscere alcuni compagni del movimento ecmatista, cosa ne pensano i compagni di questo collettivo? Ecco, perché noi abbiamo bisogno di loro per avere informazioni anche su queste formazioni, diciamo, no? che conosciamo così per sentito dire, o perché abbiamo letto qualcosa, o perché li abbiamo casualmente incontrati. Ecco, Grazie. Grazie a voi. Scusi, io chiedo un attimo, forse perché qualcosa non ho capito ancora. Sì. Con noi come gruppo, sì, con il vostro giudizio, ok. Avete rapporti? Non abbiamo rapporti con io personalmente, diciamo, perché il nostro gruppo, il nostro collettivo, a Milano abbiamo avuto due collettivi, uno è Together for Iran e l'altro è il collettivo rivoluzionario Gina, quello che, con cui siamo oggi qua. Entrambi sono stati nati dopo questo movimento, quindi non siamo un gruppo che ha come gruppo ekmatisti, sono qua da 40 anni, da non so, forse anche 50 anni, quindi non li, io li conosco da lontano, da sapendo che sono gruppi di sinistra in Iran attivi, ma non ho particolare conoscenza o giudizi su loro, li considero comunque come un gruppo dei compagni che stanno, resistono con loro ideologia contro il regime islamico, quindi li considero compagni, e poi forse sia Marco sicuramente saprà di più. Soltanto io aggiungo su il rapporto con le minoranze, diciamo gruppi emarginati, specialmente sono stati loro che hanno cominciato questo movimento. È stato iniziato con l'uccisione di Gina Amini, ma soltanto perché lei è stata curda, per i primi 3 giorni il Kurdistan ha fatto resistenza e dopo sono aderiti altre città, dopo sono stati aggiunti queste 3 città. Quindi se non c'è stato i primi 3 giorni di resistenza da parte del Kurdistan, che lì il governo ha ammazzato moltissimo, è andato molto violento, se non è stato quello periodo non esisteva neanche il movimento Donna, Vita e Libertà. Quindi diciamo loro sono la base di questo movimento, possiamo anche considerare le donne in questo gruppo, perché sono un gruppo molto sotto repressione in Iran, quindi non sono minoranza ovviamente, ma sono un gruppo eccessivamente repressi. Poi Siamo, forse può aggiungere informazioni, sì, specialmente su ekmatisti. E sulle ekmatisti, che posso dire sinceramente, poi io, perché sono stato anche un altro gruppo, dei comunisti iraniani, con i ekmatisti non andavamo tanto vicini praticamente, con lo sguardo. Però devo dire, quello che posso dire, va bene, anche con la repressione ora e oggi in Iran, questo movimento non c'entra con i partiti né comunisti né socialisti né monarchici né nessuno, perché ancora non si pongono questa domanda in Iran. Forse anche forse peccato, però è così, ancora non pensano forse fortemente di dopo regime. Ora c'è il nemico davanti alla porta e tutti vogliono batterlo, e per questo non pongono altre domande di che tipo di società vogliamo per dopo. Qualcosa molto molto, un filo molto molto delicato, molto non tanto chiaro, però non dichiarato c'è. E non ci sono forse partiti, dicono partiti di sinistra che hanno una influenza forte in Iran, dico, perché sono tutti in esilio da anni, sono in esilio, allora poi non possono avere una presenza forte in Iran, nemmeno i ekmatisti dicono tanto, però no, in Kurdistan iraniano loro, perché poi il partito madre aveva fatto una alleanza con un partito curdo, Kumale, e hanno creato il partito comunista iraniano, e loro hanno un po' di pishmarghe in Kurdistan, un po' di forza, un po' di influenza, però non si può definire una forza, presenza e significativa. E poi sui ekmatisti sono cose molto delicate che a me è un po' difficile spiegare, proprio su Hikmat, sul Mansur Hikmat, che era il loro leader, che viveva a Londra dopo in esilio, aveva dei, delle teorie che praticamente a me, al mio avviso non è, non è tanto comunista. Posso dire così. Poi, è difficile più spiegare un po' per me. Noi abbiamo qualche intervento qui in sala. Possiamo o c'è qualcun altro ricollegato? No, andate, andate. Vieni. Gli fai più spazio, noi non dicono lì. Sì, volevo fare prima un'osservazione chiedendo poi ai compagni se ritengono di condividerla, cioè il fatto che il Khomeinismo, su Beirut parlava di una rivoluzione, però può essere visto anche come la controrivoluzione rispetto a, a una rivoluzione che stava venendo avanti con gli scioperi, sono partita con gli scioperi degli operai petroliferi e che si stava estendendo a tutta la classe operaia iraniana e si sono combinate due aspetti, diciamo quello sociale, quindi di una classe operaia che stava minacciando il potere dello Shah, da un lato, dall'altra la possibilità che questo movimento fosse diretto da un partito che era filorusso, si chiama Tudé, che secondo me non era comunque comunista, ma che, e che quindi c'era una componente sociale e una componente geopolitica. Ecco, un fatto che pochi conoscono è che al vertice del G7 delle Guadalupe del 1978 decisero di puntare su Khomeini e quindi questo Ayatollah che era in Iraq venne ospitato in Francia, gli vennero forniti tutti i mezzi di comunicazione in le varie radio Londra in farsi, francese in farsi, americana, tedesca, in modo che praticamente hanno messo al centro dell'attenzione dello stesso movimento di opposizione questo personaggio che poi è stato paracadutato in Iran come dopo praticamente averne creato il mito del rivoluzionario, del capo della rivoluzione. Per fare che cosa? Per reprimere. Poi chiaramente ha preso una piega nazionalista che si è rivoltata anche contro i suoi sponsor. E questo spesso succede anche nella storia. Ma ecco, quindi e la sua repressione è stata feroce nei confronti dei dirigenti operai e dei dirigenti del movimento comunista, anche se praticamente è andato, come cioè, ha cominciato dagli elementi più radicali per poi arrivare anche a quelli che avevano fatto da spia nei confronti degli elementi più radicali, tra cui lo stesso Tudé. Ecco, questa è un po' quella che io penso che dovrebbe essere visto come processo che poi ha portato alla formazione, come dicevano i compagni, di una nuova classe dominante che è sempre una classe capitalistica, semi privata, semi statale, non è ben chiaro quante anche queste boniad siano private statali, perché ci sono entrambi gli elementi. E anche questo enorme apparato repressivo, giustamente con 3 milioni, non so se sono proprio 3 milioni di persone che sono cointeressate alla esistenza di questo regime, perché ci vivono, ci fanno carriera, alcuni anche presi dagli strati inferiori, cioè come spesso succede negli eserciti o nella Chiesa. Ecco, una domanda che si collega anche a quella che faceva prima Alessandro è che nel 79, 80, 81 si sono formati dei movimenti rivoluzionari, varie correnti di ispirazione marxista, tra cui anche questo movimento egmatista. Adesso penso che non sia il caso qui di fare una discussione a fondo su questo, che oggi è diviso in almeno tre correnti e comunque è composto, penso al 99% di esuli in vari paesi, e non ha quindi una influenza sul territorio. Ecco, quello che mi chiedo è se nel movimento studentesco, che anche in questo ultimo anno è molto cresciuto, e nel movimento operaio, in questo caso lo so per certo, ci sono degli elementi che, pur non riuscendo a creare delle strutture forti all'interno dell'Iran, stanno richiamandosi a queste esperienze, chiaramente anche per capirne gli errori, e come del resto stiamo facendo noi in Italia rispetto all'esperienza nei gruppi di sinistra, l'esperienza del comunismo in Italia a partire da 100 anni fa ad oggi, eccetera. Per cui questa, secondo me, è importante, perché, come diceva il compagno anche prima, cioè la storia dei sindacati in Iran risale al 1905. Il Partito Comunista è stato fondato in Iran, credo, prima che in Italia, ed è poi ha avuto una sua storia anche indipendente dallo stalinismo per una prima fase. Ecco, questo è una domanda, forse non è facile rispondere, ma certamente i compagni che conoscono il Farsi, che sanno anche collegarsi, possono capire meglio e magari darci delle risposte. L'altra questione, scusatemi se sono un po' lungo, è un aspetto che non è stato affrontato qui, ma il fatto che gli Stati Uniti, la Francia, l'Italia non lo so quanto, stanno cercando di costruire la loro opposizione allo Shah, al regime islamico, per avere la pedina di giocare col cambio regime, eccetera. E penso che anche nei movimenti che troviamo oggi in Europa abbiamo quindi una divisione tra coloro che sono per un movimento che sia di classe e comunque popolare indipendente in Iran, e invece quelli che si fanno strumenti che sono anche direttamente finanziati da queste potenze. Quindi penso che sia importante anche nel movimento di opposizione fare chiarezza tra queste diverse. Grazie. Sulla prima domanda io potrei dire che sulla la situazione attuale, anche tra i giovani, specialmente nella studente, tra intellettuali, e io posso dire che si vede negli ultimi 10 anni un crescita di idee di sinistra, un crescita dei gruppi di sinistra, si vede chiaramente anche i sindacati, ovviamente quasi tutti sono di sinistra, alcuni di loro ne parlano anche chiaramente, anche se ci sono conseguenze molto gravi per loro, ma ne parlano apertamente di queste, di che hanno idee di sinistra, ma alcuni altri sono un po' più, non riescono a parlare, dare riferimenti a, per esempio, filosofi di sinistra, ma si capisce che sono da tutto ciò che dicono, dalle loro rivendicazioni si capisce subito che sono di sinistra. Non so se avete visto, hanno un assieme di attorno 20 gruppi iraniani, hanno fatto un elenco di rivendicazioni come ciò che vogliono per il futuro del movimento o dopo questa rivoluzione, che si vede che leggendo le dichiarazioni, le rivendicazioni, si vede che sono tutti di sinistra, sostengono LGBTQ, sono molto molto avanzate le loro rivendicazioni, quindi fortunatamente sta crescendo tutto questo, ma dall'altro lato non c'è da dimenticare che c'è un nazionalismo che anche sta crescendo nello stesso tempo in un'altra parte del movimento. Quindi c'è un misto, purtroppo, quello che noi abbiamo paura, cioè c'è un parte, c'è un'opposizione nazionalista fascista, diciamo, c'è anche un'opposizione di sinistra, quindi sono entrambi di questo, e non si può valutare nella situazione quanto peso hanno ciascuno di questi gruppi. Vado sulla seconda domanda. Certo, è chiaro, sin dall'inizio è stato chiaro che loro, intendo Stati Uniti, Inghilterra, stanno sostenendo, specialmente con loro medie, loro TV in persiano, stanno sostenendo 100% figlio dello Shah, per esempio, come alternativa, che è un fascista, tutta la sua famiglia hanno chiaramente, dicono che per esempio in minoranza non devono avere diritto di studiare in loro lingua, hanno idee ultranazionalisti fascisti, quindi certo che il ruolo degli Stati Uniti è questo, purtroppo, ormai. E dall'altra parte c'è Russia che sta sostenendo il regime, quindi c'è problema per un paese del terzo mondo che vuole libertà, è un parte come Medio Oriente, ci sono tantissime, cioè adesso c'è Turchia vicino, c'è anche Saudi Arabia vicino, tutti quelli vogliono intervenire, vogliono fare quello che sarà buono per i loro interessi, sia capitalistiche, sia imperialistiche, sia per, parlando di Saudi Arabia, si può dire anche ideologiche, perché loro hanno paura di un movimento per libertà di donna, perché sapranno subito arriverà Saudi Arabia anche. Scusatemi se sono stato lungo. C'è qua, vieni. Giustamente avete messo in luce la continuità dei movimenti da più di anni, da molti anni. Io ho seguito il movimento del 2018, che è stato secondo me molto importante. Dei Wapan. Sì, e che è stato nazionale e che aveva elaborato in modo quasi spontaneo la parola d'ordine pace, pane, libertà, che ci riporta al 1917. Pace, pane, libertà perché? Pace perché c'era la guerra in Siria e l'Iran in Siria ha un grosso esercito, oltre che in Iraq. Pane perché c'era la miseria contro cui si sono ribellati e anche contro le truffe dei Pasdaran, delle banche dei Pasdaran, e libertà per quello che vediamo oggi. Detto questo, quel movimento è stato represso in modo durissimo dai Pasdaran e dai Basiji, se si dice così. Ora, i Pasdaran sono, è questo che ti chiedo, non solo un'organizzazione militare fortissima, ma anche un'organizzazione economica. Hanno banche, fabbriche e altro, no? E in questo sono protagonisti delle speculazioni finanziarie. Il movimento del 2018 li contesta anche la perdita di soldi nelle banche dei Pasdaran, mi pare, e sono anche interessati quindi a, come dire, reprimere in modo durissimo le manifestazioni. È come se noi avessimo i carabinieri che sono proprietari di banche, industrie, e scendono in piazza contro coloro che sfruttano o che hanno rapinato. Ora, i Pasdaran, quanti sono? Non lo so io, non ho dati. E se c'è la possibilità di un conflitto, e qui non entro solo nella rivolta popolare, con una parte della borghesia o della piccola borghesia iraniana con l'esercito stesso, che rispetto ai Pasdaran è sempre stato tenuto, mi pare, in secondo ordine, ha meno armi, meno fondi, meno salari, eccetera. C'è la possibilità anche di una crisi di regime interna? La possibilità. Grazie per la domanda interessante. Dato la dovuto alla corruzione, dovuto alla perdita di egemonia, diciamo, o di dell'ideologia del culturale o dell'ideologia del governo, c'è sempre stato, non solo in questi anni, ma specialmente dopo il Movimento Verde, abbiamo visto di tantissime forze del regime che vanno verso il popolo o fuggiscono in altri paesi. Una cosa che lo rende difficile è che queste persone che sono da parte di questi hanno questi interessi, tutti hanno la paura che se cade questo regime, anche se loro sono da parte della rivoluzione, dopo vanno processati perché hanno fatto corruzione, hanno fatto delle cose, quindi c'è anche questa paura che crea un problema. Ma forse Siamak può spiegare meglio questa domanda, io, perché è difficile, ma comunque io da quello che so c'è sempre questa perdita delle forze in ogni movimento che subisce il governo. Siamak, tu hai per caso qualche risposta a questa domanda? Sì, devo dire prima, un compagno che parlava prima era informatissimo sull'Iran, sul partito Today, su quelli che pensavo anche condivido tutto. Su questa domanda praticamente spero di no, che non succede perché non sarà positiva, è positivo un intervento dell'esercito. Prima, esercito non è più, è un'organizzazione non intatta in Iran. I suoi capi sono tutti pastaran. Capo dell'esercito iraniano, non di pastaran guardiani della rivoluzione, dell'esercito iraniano, i capi sono pastaran. Sono un'organizzazione. Ora, tradizionalmente, adesso sono tenuti un pochino lontani, diciamo, non intervengono, sono intervenuti anche nelle città, però ritengono nei confini, cosa lì, però sono secondo me una unica organizzazione. E come un'organizzazione, secondo me, no, non c'è questa possibilità. Però se pezzi cadono, pezzi che si separano, ma succede sempre, anche nel pastrano un po' di meno, livelli bassi, ma succede, 3 giorni fa è morta una ragazza, una signora che lavorava con la polizia, poi aveva criticato, aveva parlato che è fine, fu finito tutto, sarà una rivoluzione, non avete paura, è vicino, e tutto questo discorso. Poi aveva lasciato la polizia, hanno trovato morta in un angolo di una strada. E succedono queste cose spesso, però come un'organizzazione io non vedo, per dire un golpe, io spero anche di no, è quelli che abbiamo parlato, quando c'è un movimento, c'è un processo rivoluzionario, meglio che si matura, meglio che prendono forma, si auto-organizzano la gente nel quartiere, nelle fabbriche, le organizzazioni, e discutono sul regime attuale e poi sul futuro dopo questo regime. Invece una cosa come un golpe può strappare tutto questo e portare, secondo me, è molto pericoloso. Io spero che non succeda, io non vedo nemmeno possibilità, perché sono abbastanza controllati, sono abbastanza, diciamo, sciolti nel sistema tutti questi apparati di repressione e di polizia, esercito, pastara. Grazie. I collegati non c'è più niente? E c'è una domanda, vedo sulla chat, che chiedono di spiegare chi sono i Mujahideen e Khalq. I Mujahideen? E Khalq, lo so, lo pronuncio male. Khalq. Ah, sì. Khalq. Il Mujahedin del popolo iraniano. Sì, sì, ok. Sono, diciamo che sono gruppi islamisti, non c'entrano niente più con sinistra. Forse prima della rivoluzione controllava c'era una sinistra, ma dopo sono diventati sempre più verso destra, e adesso ormai stanno da molti anni prendendo soldi e sostegno da Israele, da gruppi dei repubblicani degli Stati Uniti, da anche Saudi Arabia, comunque anche dalla Francia, sì, quindi è una delle opposizioni che ha fatto Occidente, diciamo. Come figlio dello Shah che stanno sostenendo, ma forse se volete un po' di storia su questo può spiegare anche sicuramente meglio sia me. Brevemente sia me, se riesci per favore, perché ci sono qua altre persone che vogliono fare una domanda, se puoi brevemente spiegare un po' la storia di Mujahedin. Sì, praticamente Mujahedin e Khalq, Mujahedin del popolo, un'organizzazione che loro lotta era come quell'altro, l'ala di sinistra di quelli che facevano guerrieri urbane. Questa era un'organizzazione con l'ideologia islamista, quasi posso dire più di 55 anni fa si sono costruiti, formati, e avevano come idea un tipo, una cosa del socialismo, pensavano, però come ideologia avevano islamisti. Infatti sono stati soprannominati marxisti islamisti dallo Shah e poi anche dopo dal regime iraniano. Qualche anno prima della rivoluzione, una percentuale alta di membri di questa organizzazione hanno cambiato ideologia, hanno formato un gruppo, si chiamava Mujahedin Khalq Marxist-Leninista, e poi sono rimasti una parte, e il loro leader che era in carcere, islamisti. È proprio successo tante cose, alla fine loro hanno riorganizzato Mujahedin Khalq con l'ideologia islamista, e quelli altri sono separati, hanno formato diversi gruppi comunisti, praticamente tre gruppi comunisti, che uno di questi gruppi esce fuori la padre di Hikmatisti che abbiamo parlato. E Mujahedin Khalq oggi sono diventati una setta, un'organizzazione, io posso definire per me molto pericolose, con idee non è tanto differente con il regime, hanno fatto diverse cose anche all'estero con loro simpatizzanti, anche quando erano in Iraq, e poi qui hanno rapporti molto buoni con i poteri, anche in Italia. Sono stati un mese fa al Senato con l'aiuto di un membro di radicali e anche uno di destra, ora non mi ricordo il nome. È venuto Mariam Rajavi, hanno parlato al Senato, c'è un rapporto, ma una capitale molto molto grande, forte, che hanno investito qua, là, e allora sono un'organizzazione ricca anche praticamente, però da iraniani non vengono visti molto positivamente. Chi c'è? Ah, vieni! Eh sì! Sai, lei poi io li pago e devo venire. Non è che... No, parto a dire che io ho visto diversi filmati dei giovani iraniani attraverso una mia amica, una tra l'altro che frequentava qua, perché ha vissuto molto tempo in Iran, no? E li vesti molto bene, perché sono proprio, non sono organizzati, però con la storia dei cappelli, del tirare le vesti, altre cose così. E ho visto ultimamente anche in televisione di Stato e non di Stato, sì, in Italia, sì, dove hanno fatto vedere all'interno di Teheran così, dei locali e tutto, dove le donne parlavano. E da lì io veramente ammiro questi giovani, perché sono veramente questi, secondo me, che fanno la rivoluzione, secondo me, culturale. E la mia domanda però è: come mai anche stasera c'è una difficoltà ad avere delle donne iraniane qua che parlano per le donne, no? E sento sempre uomini che parlano, no? Questa è una domanda, poi mi rispondete, c'è una difficoltà, si vede, insomma, no? La seconda domanda è, siccome vabbè, io, i miei studi sono sulle radiologie così, e la mia donna che ha parlato, che ha citato le centrali nucleari in Iran, no? Che è un po' un controsenso avere una centrale nucleare in Iran. È chiaro che l'energia nucleare è solo esclusivamente capitalistica, no? Ma la mia domanda è, all'interno, per quello che sapete voi dei giovani così, c'è una cultura ecologista o qualcosa che si muove all'interno di Iran così? Ecco, perché di quello, ad esempio, non se ne parla. Ecco. Belle domande. Inizio con la prima. Se, non so se lei è venuto nel nostro manifestazioni che abbiamo avuto nell'inizio per Donna Vita e Libertà, lì si vedeva tantissime donne anche a fianco degli uomini, ma perché non vengono qua a parlare? Perché la maggior parte di loro sono studenti e devono tornare in Iran, quindi la partecipazione, sono due cose che servono per poter essere qua. Prima è sapere la lingua, che purtroppo, essendo diciamo 95% del percentuale degli iraniani qua, sono studenti, sono persone che vengono qua a studiare in inglese nelle università, per esempio Politecnico, eccetera, e dopo purtroppo vanno via per queste difficoltà che abbiamo parlato sul permesso di soggiorno, vanno a altri paesi che, come Germania, che stipendi sono più alti e anche sono più facili per ottenere il passaporto o permesso di soggiorno illimitato, quindi scappano purtroppo dall'Italia. Quindi la percentuale degli italiani che sanno italiano prima di tutto è bassissimo, sono 5%, 10% che lo sanno e riescono a parlare. Sull'altro discorso, anche quel 5-10% non è che tutti possono venire qua a intervenire, perché molti di loro vogliono tornare in Iran, hanno dei parenti lì, anch'io ho parenti, ma da molti anni per attività che abbiamo fatto ho già deciso che non tornerò mai più. Quindi sono pochissime donne che possono, anche uomini che possono fare queste cose. Quindi, sì. E a Milano? Hanno fatto interventi o credo, però non è che era una cosa, volevo solo capire, cioè tu hai dato una, perché sì, no, anche io da quello che conosco, perché anche abbiamo rapporti con comunità curda a Milano, ma anche loro maggior parte sono italiani, sono donne italiane, non maggior parte, quasi tutti loro, c'è stato soltanto una ragazza che è stata malata purtroppo da qualche tempo, quindi non c'è neanche lei. Neanche uomini curdi non ci sono, purtroppo, da quello, perché noi da molto tempo vogliamo fare cose insieme con loro. Purtroppo è stato così. Comunque, per la nostra comunità il problema la maggior parte è quello. Quindi anche noi volevamo sempre, quando facevamo manifestazioni venivano moltissimi iraniani, ma sempre quando facevamo come si dice, incontri in italiano, partecipavano al massimo 10 persone. Anche se primi mesi del movimento, perché non sanno la lingua, quindi se non si capisce non è interessante, non vengono, cioè tutte queste cose. Seconda domanda se sull'ecologia, che è giustamente un discorso molto importante. Sì, ci sono moltissimi iraniani, ma c'è stata una repressione molto molto eccessiva su loro, perché come sappiamo tutti c'è il Pasdaran, c'è tutto il regime che guadagna di rovinare e sfruttare l'ambiente. Quindi c'è stato da parte sia giovani sia quelli che attivisti conosciuti dell'ambiente sono stati incarcerati, alcuni di loro ammazzati anche. Quindi purtroppo è così, ma c'è, come qua ci sono delle attivisti, ma non si può dire che sono come una forza politica, chiaramente, esattamente come qua, purtroppo. Se non c'è altro in sala, se non c'è altro in collegamento. Yeah, c'è anche lei. Vieni. No, vieni qua intanto. Sì. Ridai, devi parlare lì. A questo compagno, se ci può presentare questo collettivo Gina, dire quali sono i suoi punti caratterizzanti, insomma, perché io lo conosco personalmente poco, quindi vorrei avere un'idea più precisa. Grazie, grazie per la domanda. Noi siamo Together for Iran, la nostra prima collettiva che è stato creato a Milano, non c'era tutta Italia, siamo stati un gruppo di iraniani e anche italiani di sinistra che abbiamo fatto organizzato delle manifestazioni a Milano. Invece collettivo rivoluzionario Gina è collettivo rivoluzionario Gina e sempre attivisti di sinistra iraniani italiani anche che sono diffusi in tutto il paese, tutta l'Italia, non soltanto a Milano. Quindi ci siamo conosciuti dopo questo movimento, siamo venuti insieme. Parlando di ideologia o che punto di vista abbiamo, non si può ancora dire, perché siamo diverse persone che ci conosciamo da poco tempo, ma sappiamo che tutti siamo da sinistra, non vogliamo per esempio il figlio di Reza Pahlavi, non vogliamo Mujahedin, non vogliamo l'intervento da NATO in Iran né dalla Russia. Quindi ci sono delle punti di vista comuni tra noi, ma ci sono differenze anche di idee, di quando andiamo in dettagli. Quindi è un collettivo creato da 6 mesi che è così. Spero di aver risposto un po' alla domanda. Certo, certo, ma se troviamo tempo, perché quasi tutti siamo dipendenti e abbiamo poco tempo per fare questi incontri e anche altre cose, quindi se troviamo tempo è molto necessario anche per trovare. La vostra attività? Personale? No, come collettivo rivoluzionario. Organizziamo manifestazioni, abbiamo organizzato delle manifestazioni, incontri come questo, organizziamo anche incontri dentro comunità iraniana, in persiano ovviamente, perché sapendo che la maggioranza non parlano italiano, per scambiare idee, eccetera, tutte queste cose. E anche stiamo provando a avere più rapporti con sindacati in Iran, specialmente, o gruppi in Iran, per poter essere più efficace nell'essere loro voce. Quello che stiamo provando. Allora, Donne, Vita, Libertà non è semplicemente uno slogan, è la sintesi di un pensiero politico che è espresso dal movimento curdo e dal movimento delle donne curde, soprattutto in Rojava, e che significa il confederalismo democratico, ma anche l'autonomia delle donne e quindi il riconoscimento della prima oppressione della società nei confronti delle donne. L'idea di una società partecipata dal basso significa l'ecologia, significa un potere condiviso uomini e donne. Ora, all'interno del movimento in Iran, spontaneo finché si vuole, però questo slogan ha un suo contenuto, lo dibattete anche voi qua, oppure state evitate di affrontare il tema perché il movimento contro l'Ayatollah ha bisogno, come dire, per adesso di non avere bandiere, ma ha senso questo? Ve lo chiedo. Bellissima, molto bella la domanda. Sì, sappiamo da dove viene questo slogan, che c'è anche un'ideologia, anche un'idea politica dietro questo slogan, viene da Ocalan in Rojava. La cosa è che in Iran è venuto questo, come dicevo, questo movimento è iniziato in Kurdistan. Sono stati loro che hanno iniziato e loro sono tra loro, c'è anche un parte Rojalat che è nel gruppo di curdi in Iran che sono seguitori di idee di Rojava di Ocalan. Esatto. Esatto, quindi io sto dicendo che questo, lo slogan è stato quello, ma in Iran è diventato diffuso questo slogan, perché proprio non stiamo parlando adesso di ideologia o idea politica di Ocalan, ma questo slogan era quello che serviva il paese, perché un paese con metà del paese represso eccessivamente da moltissimi anni, che anche gli uomini non lo vogliono più. Tra i giovani specialmente, non lo vogliono più, questo, lo vedono molto pazzo questa repressione contro le donne. Parlando di idea politica, non è detto che tutti questi che sono sulla strada seguono le idee di Ocalan o sanno cosa c'è dietro. A loro piace questo slogan, donna, vita, libertà, e lo vedono come un'esigenza, come un movimento. Ma come dicevo, ci sono anche quelli di destra che... loro hanno, i monarchici hanno cambiato lo slogan a uomo, patrio, sviluppo, hanno aggiunto questo come un suffisso, donna, vita, libertà, uomo, patrio, sviluppo. Possiamo sapere cosa vuol dire? Un slogan molto molto fascista che parla per sé. L'hanno aggiunto ai monarchici, hanno anche nazionalisti, che non sono pochi, ripeto, non sono pochi anche dentro in Iran, specialmente ultranazionalisti. Non sto parlando di soltanto monarchici, quelli forse sono pochi, ma nazionalisti purtroppo, nazionalismo è un'alternativa buona per islamismo purtroppo, per adesso. Quindi c'è anche quello. Tra noi cosa facciamo? Sì, stiamo parlando anche di ideologie, di parlare tra noi per capire molto un po' meglio le ideologie di Ocalan, che non è detto che è condiviso tra anche tutti noi in tutti i dettagli, perché sono compagni di sinistra che hanno idee diverse, anche alcuni parti sono divisi, alcuni no. Spero di aver risposto, dato a... Sì. Non abbiamo visto una, perché in Iran non è come qua che si può fare una riunione per parlare idee, esprimere le loro idee per poter capire cosa pensano le donne in Iran. Non c'è la possibilità di fare un riunioni politiche aperte. Quindi non si può sapere se le donne cosa pensano, sicuramente come le donne in Italia pensano, c'è cioè anche Meloni che pensa lì, cioè, ci sono, anche in Iran lo stesso, è proprio lo stesso, le donne pensano diversamente, quindi c'è sicuramente chi... È un po' intuitivo, sì. Parlare del mondo di queste donne che scendono così coraggiosamente in piazza solo per il velo, no? Sì. Sì, ma dentro lo slogan c'è anche la libertà, non c'è soltanto la donna, quindi come dicevamo, tutti questi gruppi sono dentro questo movimento, che tutti sono stati repressi, non si può dire neanche che quelli di destra non sono stati repressi, anche loro sono stati repressi, anche loro sono, anche i sindacati sono anche di sinistra, sono anche studenti, sono intellettuali, sono, quindi c'è un movimento di emarginati, quelli curdi, specialmente Belluci, tutte queste minoranze etniche, tutti questi sono religiose, i Baha'i, tutti questi sono dentro questo movimento, ma non è detto che stanno seguendo Ocalan, no, forse in Kurdistan sicuramente una parte sì, ma non è detto in tutto il paese. Allora, c'è ancora una domanda? No, non comunicati, lunghi eventi, perché sono le 11, se devi fare una domanda, sì. Una domanda gliela faccio in privato. No, in privato, no, se vieni qui non fai domande in privato. Una osservazione che ecco, può okay. Generare una domanda. Allora, a parte, rilevo che a parte gli ultimi due interventi non c'è stato un effettivo, non solo coinvolgimento, ma neanche interessamento su quello che è effettivamente questo movimento, che io come loro chiamo movimento rivoluzionario. Non c'è stato, perché c'è un effettivo imbarazzo a trattare con un processo storico che non parte dalle stesse premesse e non ha lo stesso modo di evoluzione che ha avuto il movimento in Occidente. Parto invece però dalla fine, solo per rispondere, e questa è anche una domanda, se vogliamo, alla compagna che mi ha preceduto. le donne. Allora, questo è tratto da una lettera di una donna, di un'attivista che è stata più volte incarcerata. Non mi chiedete di pronunciare il suo nome, per piacere. Allora, dunque, sulla questione delle donne e degli hijab. In Occidente, poiché gli intellettuali occidentali stanno affrontando il problema della mancata integrazione dei musulmani nella propria società, poiché non possono credere che un fenomeno come l'hijab possa creare una catena di oppressione, di degradazione delle donne e di autoalienazione, pur non avendo nulla a che fare col capitalismo, e poiché sono abituati a vedere tutto attraverso il prisma del capitalismo e non riescono a capire nulla al di là di esso, credono che una donna musulmana non possa lamentarsi della sua condizione in maniera così diretta e così importante, meno che mai. Questo è quello, non sono parole mie. Se vuoi interrompo qua, passo alla seconda cosa. Il punto effettivamente comune trasversalmente a tutto il movimento è la pretesa, non la richiesta, la pretesa della fine della teocrazia. Non se ne è parlato assolutamente. E ho solo da segnalare che chiaramente c'è un processo di liberazione da un'oppressione che è politica, che è economica, che è sociale, che è civile, ma che non parte questa volta dal problema del disagio economico e del bisogno. Questa volta no. In Occidente siamo abituati a pensare che tutto parta da qua. Questa volta succede una cosa diversa. Le rivendicazioni, le pretese, il movimento parte prima dal problema della liberazione, del processo di liberazione sociale e politico, della distruzione di questa forma di Stato, e poi dentro questo si svolge tutto la dialettica intorno al disagio economico e all'ingiustizia sociale. Forse vale la pena di tenerne conto. La domanda è proprio a Berus direttamente. Mi sbaglio? Per dire la verità, io penso personalmente, ho parlato almeno 5-6 volte la parola regime teocratico, e ho anche spiegato che molti di questi problemi è perché il regime teocratico di questo regime, rispetto per esempio l'altro regime dittatore, che non era un regime, era un regime totalitario ma non era teocratico, il regime dello Shah. Penso abbiamo parlato di questo, e poi è chiaro che una parte che io non condivido nel tuo intervento, che non è che questo movimento è soltanto per il discorso che riguarda la teocrazia. C'è adesso un'inflazione pazzesca in Iran durante questi 6-7 mesi. Anche prima c'era, gli ultimi 3 mesi prima di questa manifestazione. Quindi non si può dire, specialmente nei parti emergenti, per esempio Baluchistan, non si può dire che loro sono venuti sul strada per lo hijab, perché molti di loro sono anche musulmani, indossano il velo. Ma per loro il discorso è proprio molto anche riguardo il discorso economico. Quindi io penso che c'è un misto di tutto. Hai ragione, nel senso che se si chiude gli occhi e pensa soltanto su imperialismo e capitale, eccetera, si sta sbagliando, perché la situazione di Iran ha delle sue particolarità molto molto diversi da tutto il resto del mondo capitalistico. Ma c'è anche il discorso dell'intervento di Russia come un potere capitalista, di Erdogan che aiuta a repressione dei curdi dentro Iran, e Iran aiuta anche Erdogan. Quindi c'è tutte cose, c'è Saudi Arabia, c'è Stati Uniti che con il loro TV che stanno facendo propaganda per estrema destra in Iran. Quindi c'è tutto questo, io vedo tutto queste, penso che tutte queste sono importanti. Spero di aver risposto. Grazie. Il sindacato del sindacato delle precari, cioè per quelle assunte a contratto del settore petrolifero, hanno firmato un documento comune in cui certo che si parla della situazione economica, dell'ingiustizia economica, delle rivendicazioni sulla maggior benessere materiale della popolazione, ma ha firmato un documento unitario che parte proprio dalla questione della distruzione di uno Stato fondato sul patriarcato, sull'autoritarismo, sulla catena dell'autoritaria. Ed è una cosa che qui viene ignorata completamente, mentre è certo che non si ignorano gli scioperi di tipo rivendicativo, gli scioperi sindacali o gli scioperi che mi risulta sono stati per la più parte spontanei e che hanno effettivamente, come anche dicevi tu, difficoltà a organizzarsi in un sindacato stabile. Ma non è questo il punto da cui è partita la critica alla società iraniana, la critica alla società teocratica, dove sappiamo che comunque il potere economico è completamente accorpato con quello politico e religioso, per cui si tratta di un sistema molto diverso da quello che dai sistemi che si sono prodotti in Occidente. E il senso di questo discorso era semplicemente questo: il movimento rivoluzionario iraniano è stato accolto con estrema freddezza per 8-9, penso che siamo al decimo mese, si comincia a parlarne adesso, ma prima io non ho visto con i ragazzi, con gli iraniani in piazza, non ho visto nessuno dei movimenti della sinistra, non ho visto nessuno nelle altre iniziative, non mi è capitato di leggere interventi che effettivamente entrassero nello specifico, nella diversità di questo movimento, col quale dovremmo avere, penso, un rapporto dialettico, magari facendo meno del narcisismo occidentale, insomma il centralismo occidentale e del nostro movimento operaio, perché esistono capacità rivoluzionarie anche al di fuori dell'Occidente che hanno punti di partenza e punti di sviluppo molto diversi. Questo forse è ora che effettivamente a questi movimenti si dia la solidarietà che hanno chiesto, che abbiamo negato e che meritano. Grazie. Purtroppo, per quanto riguarda le capacità, mi sembra che sia l'Occidente che l'Oriente non dimostrino grande, diciamo, consapevolezza. Però detto questo, e credo che in collegamento non c'è altro, se me lo conferma il master. No, no, al momento non c'è nessuno che vuole intervenire. Potremmo anche chiudere. Ok, grazie a tutti, basta così. Alla prossima, grazie. Grazie sia a me. E anche a Anna.